si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. Ciao Carlo. Ciao Alessio. Buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini. Ma anche da Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta in redazione oggi, e da Paolo Corleoni in regia. Tutti qua per stare insieme a voi fino alle 10. Bello, perché mi stai dicendo delle domande, perché hai la sensazione che io non sia sveglio. Sono sveglio, c'è un sole bellissimo, Milano Monterosa, come diciamo sempre, un bellissimo sole. Poi abbiamo sentito anche le previsioni, siamo tranquilli, stiamo aspettando la bellissima domenica, molto bello. 800 24 00 24, vi aspettiamo per commentare con voi la vostra settimana di notizie, di buone notizie, ma anche per giocare con noi. Cerchiamo naturalmente il personaggio della settimana. Allora, il personaggio di questa settimana è legato ad una notizia. La notizia è una notizia, Italia-Spagna andata e ritorno. Questo è il tema del personaggio della settimana. 800 24 00 24. L'indizio non è difficilissimo. In che senso un indizio non è difficilissimo? Spagna, si capisce, le parole sono molto chiare, giusto. Però poi bisogna cercarlo questo personaggio. Anche oggi in palio due biglietti e il catalogo della mostra Tamara delle Pichka a Verona. Quindi chiamate e se indovinate per primi portate a casa questo bel regalo. E bisogna cercarlo il personaggio, direi che è già un indizio molto bello. E allora, cari ascoltatori, avremo nella nostra puntata dopo le 9 Dacia Maraini con noi, grandissima scrittrice Dacia Maraini, per commentare la rivolta dei commercianti e degli imprenditori a Bagheria, una bellissima notizia, molti arresti contro, insomma, il racket a Bagheria, quindi una grande rivolta civile. Parleremo con lei, poi avremo naturalmente altri ospiti. Tra poco parleremo invece di musei, perché c'è una notizia, ma non la svegliamo subito, negli ultimi giorni della settimana, una buona notizia forse, questa ce la mettiamo col punto interrogativo. Speriamo. Che facciamo? Cominciamo con il riepilogo della settimana, vai! Allora, Paolo Corleone non ha messo Happy Days, perché abbiamo anche Happy Days come base per la settimana. Hai sentito che c'è stata una discussione alla riunione della sinistra italiana al Teatro Quirino a Roma, perché hanno detto non siamo la sinistra di Happy Days, riferendosi a Renzi e company. Che poi dirlo nella settimana in cui è morto il barista di Happy Days, insomma, qualcuno ha subito, secondo me qualcuno si è anche toccato dicendo, stanno dicendo, è un po' tipo un Letta stai serena, è quella sensazione. Non siamo Happy Days, tutti si sono detti, ma chi di noi, chi fra noi qui è il barista di Happy Days che magari muore entro la fine della settimana? Poi però Matteo Orfini ha twittato e ha detto, comunque ragazzi, Orfini, che era uno della sinistra del PD ma adesso è un renziano, gli ha risposto, ha detto guardate che però Happy Days era bello, era divertente, come dovrebbe essere la sinistra. Ah, questo è stato il commento? Sì, ha detto così. Beh, era comico. Sommersa abbastanza di critiche, vabbè. Cominciamo con Vatilix, non poteva che essere così. Allora, se qualcuno non avesse ancora capito che cos'è successo, cos'è questo, ve lo spieghiamo noi in due parole. Allora, sono usciti due libri, Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, un giornalista, l'altro è Emiliano Fittipaldi, Avarizia, che hanno pubblicato una serie di documenti riservati, usciti dalla commissione che è stata creata da Papa Francesco per rimettere a posto l'aspetto, diciamo, finanziario del Vaticano, di cui si è parlato per secoli, con scandali, insomma, non è una novità. Dai 30 denari, esatto, si è iniziato a parlarne. Una commissione che appunto doveva riformare il Vaticano da questo punto di vista. Sono usciti questi documenti, sentiamo allora intanto alcune frasi di Emiliano Fittipaldi su alcuni aspetti di questa investigazione. Sentiamo. Parte importante della beneficenza che viene fatta alla Chiesa, sia con l'otto per il mille ma anche con l'obolo di San Pietro, ecco, questi soldi che dovrebbero essere dati ai poveri. Più poveri, invece sono stati accumulati negli anni, adesso un fondo arriva quasi a 350-360 milioni di euro che viene poi investita sui mercati internazionali. oppure che alcune fatture, siano circa 200.000 euro, siano state pagate dalla fondazione a un'azienda che ha fatto i lavori in casa nel famoso attico di Bertone. L'attico di Tarcisio Bertone, vabbè, perché poi cosa succede dopo? Cosa succede dopo? Che vengono arrestati due persone ritenute responsabili di questa fuga di notizie. Che uno dice, ma come? Invece di arrestare quelli che hanno fatto le malversazioni, che hanno tolto fondi che andavano ai bambini per farci la ristrutturazione dell'attico di Bertone, arrestate quelli che fanno uscire notizie. Ebbene sì, il Vaticano ha fatto arrestare Monsignor Balda e la sua collaboratrice Francesca Sciauchi proprio per questa fuga di notizie. Il Papa dice di non essere preoccupato per questi arresti, non sono scattate delle contromisure di nessun tipo. Nuzzi, però, uno dei due giornalisti che ha utilizzato queste notizie e anche queste collaboratrici, ha detto una reazione abnorme questa dell'arresto di Sciauchi. Tu come hai reagito a questa settimana di notizie sul Vaticano? Tranquillamente sì, no, è stato incredibile perché giustamente hanno bloccato, cioè li hanno arrestati e diventa un meccanismo strano perché è da seguire da questo punto di vista. Diciamo che ho reagito soprattutto visto che stavi parlando di Bertone, della sua casa, della sua ristrutturazione. Su Facebook è nato un divertentissimo gruppo che si chiama Capodanno a casa Bertone. E questo mi ha fatto molto ridere perché ci sono tutti i commenti. C'è, cioè, chi dice che... ma si vedrà anche la casa di Scaiola. Anche a me mi hanno invitato ad andare lì a Capodanno a casa Bertone. È una cosa molto divertente. E poi ho semplicemente twittato, visto che sono tutti così agitati nella chiesa sulla questione della fuga di notizie, con una battuta un po' volgarota, ho semplicemente twittato viva la fuga. Bellissimo, bellissimo. Restiamo a Roma, perché l'altro tema di questa settimana: si è insediato il prefetto Tronca, che scorsa settimana avevamo salutato come il nuovo tecnocrate che ha in mano, insomma, le sorti della capitale. Il Giubileo ci sarà sopra Gabrielli, ma Tronca è sopra ancora di tutti a questo punto. Si sono insediati 6 subcommissari. Renzi ha detto quello che dovrebbe essere un po' il programma di questa reggenza prefettizia: periferie, luci della sera e mezzi pubblici. Cioè, ci concettiamo quasi come dire: Marino, tu che volevi pedonalizzare i fori imperiali, che ti preoccupavi dei tavolini in Piazza Navona, eccetera eccetera. No, noi ci concentriamo su queste altre cose qua. E comunque mi sembra che non ci sia di nuovo la legalità, gli appalti, il problema dei soldi, che mi sembra quello in questo momento. No, luci nelle periferie, luci della città. Su questo la vera cosa da dire è che anche Tronca, che parla di Dream Team, giustamente è lì per risolvere i problemi, siamo tutti a guardarlo come fosse un supereroe. Mi piacerebbe dirla un po' con Brecht: triste il paese che ha bisogno di eroi, nel senso che abbiamo bisogno di un eroe ed sembra l'unico modo, non si può metterla a posto tranquillamente. Non ha proprio la faccia, il physique du rôle dell'eroe. Sentiamolo, Tronca. Al massimo nella prossima settimana almeno una prima squadra di collaboratori del commissario sarà pronta. Che poi in realtà i 6 subcommissari sono stati successivamente nominati. Si attende il famoso Dream Team che dovrebbe essere attivo soprattutto sul versante del Giubileo. Negli stessi giorni a Roma parte il processo per mafia capitale con insomma i noti incriminati, che sono Salvatore Buzzi in videoconferenza perché è in carcere, pure lui collegato da qualche altro carcere, l'ex terrorista Carminati. C'era invece in aula Luca Odevaine, ex braccio destro di Veltroni, poi assorbito al Ministero degli Interni nella parte di coordinamento dei richiedenti di diritto d'asilo, posizione dalla quale avrebbe fatto alcune delle sue manovre illecite, e agli arresti domiciliari Odevaine, perché ha deciso di collaborare e ha confermato questa cosa qua. Nel frattempo Carminati soprattutto ha detto che parlerà, perché qua penso che difendersi, dice il suo avvocato, non dirà niente di clamoroso. Vediamo. Processo che sarà seguito naturalmente in diretta mondiale, credo. Allora, poi si parla del futuro di Roma. Grillo è uscito con una dichiarazione importante, perché ha detto: guardate che se vinciamo noi le elezioni a Roma, come dicono tutti i sondaggi, succederà un casino, scioperi, gente che verrà in comune per chiedere perché ci sono persone che perdono lavoro, perché insomma noi qui vogliamo fare piazza pulita, perché sai che Grillo sul servizio pubblico è favorevole, non vuol privatizzare, però è arrivato il momento, lui dice, di mandare a casa un sacco di gente, perché in effetti questa potrebbe essere la ricetta, perché quegli altri, il PD, il Forza Italia, in passato cosa hanno fatto? Non hanno mandato a casa quasi mai nessuno, salvo poi nel servizio pubblico a un certo punto arrivare a dire: beh, non funziona, bisogna privatizzare. E questa è un po' la ricetta che è stata. In realtà ha detto delle parole durissime, e Grillo, quasi che in questo momento si stanno guardando in faccia tutti quelli del Movimento 5 Stelle, si stanno dicendo: speriamo di non vincere, perché poi tocca farle tutte queste cose qua, e saremo tutti contenti. Nell'immediato futuro, se governeremo questa città, saranno effetti collaterali molto pesanti, azzereremo tutte le amministrazioni, quindi avremo, i romani devono saperlo, che avremo scioperi, gente che verrà in comune a chiedere il perché, gente che perderà il lavoro, non abbiamo il reddito di cittadinanza, perché se avessimo il reddito di cittadinanza andremo alla grandissima, ma devono i romani capire che miracoli qui in questa città non li fa nessuno. Se dovessi scegliere fra questi sei e non uscisse la settima opzione, che è un romano normale, senza che sia un grande nome, il cantante, l'attore, la ballerina, il manager, una persona normale, un commerciante, un medico, un farmacista, io fra questi sei scelgo Giorgia Meloni. E allora, questa è Roma, tra poco continueremo a parlare di Roma in un senso, perché ti ricordi il famoso assemblea dei dipendenti del Colosseo che il 16 settembre fece impazzire per una giornata intera tutta Italia, tutti a parlare di questa cosa qua? Ebbene, è stato approvato in settimana il decreto sul Colosseo, adesso i musei sono servizi essenziali, si può fare, col punto di domanda, è una buona notizia, cercheremo di capirlo. Me lo chiedo. Dopo la pubblicità, dopo il traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Domenica mattina, questa qua, Roma Capoccia. Se sei romano è perfetta. Perfetta. Facciamoglielo dire. Roma Capoccia. Perché parliamo del decreto Colosseo, chiamato così, ma ne parliamo con una persona che è in collegamento invece da Torino. Dice perché? Adesso ve lo spieghiamo. Buongiorno Patrizia Sproni, ben ritrovata Patrizia. Buongiorno. Buona domenica a tutti. Anche a te un grande abbraccio. Lei è presidente della Fondazione Torino Musei. Abbiamo chiamato te per commentare questa notizia che in realtà non riguarda solo il Colosseo, ma tutti i musei italiani che diventano servizi essenziali, anche perché, anzi soprattutto perché, ne parleremo tra poco, oggi si chiude Artissima a Torino, un grande fiera dell'arte, insomma, ci vogliamo la parlare. La più grande fiera dell'arte la contemporanea. Senti come lo dice anche con orgoglio. Allora, certo. Però prima vogliamo commentare questa cosa qua. Secondo te bisogna arrivare a questo? Cioè bisogna arrivare a fare dei musei dei servizi essenziali per, vuoi dire, farli funzionare meglio, per mettersi al riparo forse da questa figuraccia, insomma, quello che è accaduto a Roma. È una reale esigenza o è semplicemente una lotta contro i sindacati dopo quello che è successo? Si può girare anche così la domanda. Vai Patrizia. Ecco, allora io posso dire questo, che siamo un paese produttore di decreti legge e pensiamo che sia il decreto a risolvere tutto, a ingenerare il senso civico. No, a ingenerare proprio il senso civico. Premesso che scioperi, riunioni sindacali chiaramente sono un diritto sacrosanto, ma come dire, ci vorrebbe semplicemente del buon senso. Invece così ingeneriamo, voglio dire, alimentiamo burocrazia, per cui con un decreto legge pensiamo di risolvere tutto. L'errore dei musei italiani qual è stato finora? Ma sì, chiaramente le cose stanno cambiando. Non aver mai messo il pubblico al centro della sua missione, ma le esigenze invece del personale o meglio degli uffici al centro della propria missione. E quindi gli orari, giustissimo, musei... posso dire una cosa, Patrizia, perché è vero, sì, è talmente vero che quel giorno lì che è successa quella cosa al Colosseo a settembre, io ho detto: ma i lavoratori hanno fatto un'assemblea giusta, legittima, sicuramente hanno ingenerato un disagio, ma se i dirigenti della sovrintendenza avessero mandato qualcuno lì davanti a spiegare al pubblico, che come dici tu va messo al centro, cosa stava accadendo, magari promettendo un ingresso gratuito nel pomeriggio o qualcosa del genere, non sarebbe successo nulla. Invece il problema è che non è stato fatto niente di tutto questo al di là dell'assemblea. Esatto, una comunicazione, voglio dire, per tempo, una settimana prima, 15 giorni prima. Esatto. Perché sai che per legge le assemblee sindacali devono essere comunicate per tempo, non avrebbe creato quel disagio al pubblico. E invece ci si comporta, voglio dire, come se ancora i musei fossero quelli di una volta. Tanto che adesso ci sarà una battaglia anche per cambiare gli orari dei musei. Sì. Che sono in che ancora... modo? Beh, oggi la maggior parte dei musei, non i grandi musei più, ma gli altri, sono per esempio aperti dalle 8 alle 14. E questo, voglio dire, non ha assolutamente senso. È troppo perché poco, perché troppo magari poco. Qualcuno viaggia. Esatto, del turismo, del pubblico è completamente cambiato. Ma pensiamo, per esempio, a oggi agli orari dei musei al sud, quelli dove ci sono quelle spiagge meravigliose. Sì. Che sono aperti dalle 8 alle 14 mentre le persone sono in spiaggia. Dovrebbero Fantastico. Forse aprire dalle 17 a mezzanotte, quando le persone tornano dalla spiaggia. E hanno ma che idea, Patrizia, ma che idea strana che ti no? è venuta! Che idea strana che mi è venuta, che idea strana. Ecco, però questo farebbe funzionare molto meglio, voglio dire, i musei attirerebbero maggiormente il pubblico, ma secondo me anche il personale sarebbe più soddisfatto, più contento, perché io vedo che quando i musei sono pieni di pubblico il personale è contento, certo, soddisfatto, perché partecipa al successo del proprio museo. Ma infatti, quindi, il problema mi sembra sempre questo, che era quello che dicevi prima, ovvero che, se, che è come che sembrasse che non c'è un reale interesse. Se c'è un reale interesse da parte di un museo di avere spettatori e fruitori, ovviamente è la prima cosa che farebbe, no? Dice: sono tutti in spiaggia, io apro dopo, per fare l'esempio, sì, che hai fatto tu. È che sembra sempre che ci sia invece il lavoro statale di uno che dice: vabbè, io sono al museo, a me non me ne frega niente che vengano visti queste opere d'arte da milioni di persone. No, no, ma è proprio questo, è proprio cambiare completamente la prospettiva. Il visitatore deve essere messo al centro e quindi tutti i servizi vanno fatti a misura di visitatore. Gli impiegati, i dipendenti si devono adattare al visitatore, perché poi è il visitatore quello che porta il denaro che serve a pagare lo stipendio del chiaramente del personale. E comunque, anche la manutenzione, diciamo, del museo. Adesso, certo, abbiamo questa novità e avrà delle ricadute, come tu dici, io credo soprattutto burocratiche. I musei diventano servizi essenziali. Voglio solo ricordare chi ha votato a favore: il PD, gruppo del centro con Alfano, e gruppo misto. Contrari, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, SEL, Lega Nord si è astenuta. Quindi Lega Nord era un passo. Ma cosa cambia adesso nella realtà con questo decreto? Ma secondo me non cambia assolutamente niente, perché io credo che già nella mente delle persone il museo sia un servizio essenziale, la cultura sia ormai diventata un servizio essenziale, è da lì che vengono fuori i malumori. Se voglio dire, non fosse importato niente a nessuno, non ci sarebbero state neanche le proteste. Sì. Quindi io credo che questo decreto legge sia più che altro simbolico. Va bene, abbiamo messo un cappello. Io ho già detto la mia, ma insomma serve a poco, però credo che una mezza giornata senza Colosseo si possa vivere, senza mezzi pubblici no, è più complicato. Comunque, detto questo, sì, ma almeno informiamo, esatto, questo sì, questo sì, non fatemi andare inutilmente a Colosseo. Brava, che è quello che non è stato fatto. Bastava mandare qualche come si dice, hostess lì davanti a spiegare ai turisti quello che stava accadendo, invece hanno trovato un cartello scritto tra l'altro in un inglese scorretto, per cui è successo, te lo ricordi, un casino dietro l'altro. Sì, Patrizia, sì, allora, artissima, sì, cosa? Artissima, è la fiera più istima, credo, e quest'anno è ancora più istima, veramente. Sì. È il festival del superlativo? È la festa del superlativo. Intanto dove siete? Dove vi si trova? Al Lingotto, all'Oval del Lingotto a Torino. Sì. Comunque è una fiera ormai talmente internazionale. Lo sanno tutti. Come sai, voglio dire, fra le prime 5 grandi fiere del mondo. E devo dire che quest'anno è particolarmente bella, interessante. Peraltro anche lì abbiamo aumentato il raccordo con i musei e la città. Bene, per bene. Cui all'interno di Artissima ci sono anche delle opere d'arte del Museo d'Arte Orientale. Dei percorsi che riguardano anche i musei della città. Senti, ma cos'è che adesso tira a livello di arte? Se ho un cascella non va più di moda? No, guarda, l'Italia, gli artisti italiani stanno diventando ancora più importanti a livello internazionale, devo dire. La nostra arte povera è una delle più, se posso dire questo, gettonate nel mondo e anche nelle aste. Quindi un grande interesse per la nostra arte, ma soprattutto... Quadri e sculture e installazioni, ma la cosa interessante è che sta aumentando il collezionismo giovane. E questo è estremamente importante. Pensavamo invece che il collezionismo fosse una cosa da anziani, invece sta rinascendo anche tra i giovani, vedi Carlo? Non me l'aspettavo, il collezionismo giovane, ma bisogna avere tanti soldi insomma, giovani e ricchi però. No, assolutamente, perché non ci vogliono tanti soldi, ci vuole semplicemente della passione, perché si trovano delle occasioni straordinarie. Fammi un prezzo stracciato. Ma ci sono anche opere da 1.000 euro, per esempio, che possono euro essere. Non sono pochissimi. E lì bisogna però studiare. Grazie Patrizia, dobbiamo salutarti, c'è il GR. Bene, grazie a tutti, grazie mille. Ciao, buona domenica. Appuntamento ad Artissima se volete. Noi ci risentiamo dopo il giornale radio 800 24 00 24. Cerchiamo un personaggio della settimana. La notizia è Italia-Spagna, andata e ritorno. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Sentirsi con papà senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Vi aspettiamo all'800 24 00 24 per commentare le notizie della settimana, le vostre buone notizie, anche per commentare la notizia a cui siamo partiti, cioè l'approvazione definitiva del decreto Colosseo. Adesso i musei sono diventati servizi essenziali. Avete sentito però Patrizia Sprone, la Fondazione Torino Musei, che si occupa in modo manageriale della gestione di diversi musei di successo a Torino, c'è soprattutto un fatto simbolico perché non cambierà molto, dice lei. Sì, benissimo, signore. Benissimo, andiamo. No, mi sembrava contenta, mi sembrava, diceva sì, anche siamo un paese che pensa di risolvere tutto semplicemente con dei decreti, quando invece è la coscienza civica di tutti che deve cambiare e chi lavora in un museo deve capire che in realtà al centro ci deve stare e che lo spettatore può cambiare, che sta cambiando, perché alcune cose, l'ho ricordato anche lei, si stanno facendo, tipo per esempio modificare anche gli orari dei musei, allungarli un pochettino anche la sera. Cominciamo con anche con gli ascoltatori, stiamo cercando un personaggio della settimana. Mario da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao Mario, allora, su cosa volevi intervenire? Sì, della settimana direi che è Valentino Rossi. Beh, Valentino Rossi, possiamo non chiedere qual è la notizia, visto che alle 14 parte si gioca tutto il MotoGP. E non infatti non è lui, non è lui, ci sembrava troppo facile, era facile, però siamo contenti che così lo ricordiamo, che siamo tutti in fibrillazione, sì, che dobbiamo chiudere la trasmissione perché dobbiamo andare a tifare. Grazie Mario, abbiamo anche detto che faremo dei fioretti se Valentino dovesse farcela, dovesse vincere. Io personalmente ho detto smetto di mangiare la cioccolata, prima ho detto per un mese, poi un ascoltatore mi ha detto beh troppo poco, ha ragione, per un anno, io per un anno smetto di mangiare la cioccolata. E io sarò il tuo guardiano. Sarò il tuo guardiano. Tu hai detto che devi accompagnare a dormire i miei 10 nipoti. 10 per il momento, almeno che ci sia qualcosa che io non so e che sai tu Alessio, però per il momento sono 10. No, mi sono solo sbagliato. Giuseppe da Varese, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno amici. Ciao Giuseppe. Vi chiamo amici perché sono stato prima dell'attuale il presidente degli amici dei musei di Varese. E quindi gioco un po' in casa sull'argomento del giorno. Bravo, ecco. E puoi dire la tua alla grande. Cosa ne pensi di questo decreto? No, Io non sono d'accordo con quello che ha detto l'amica a proposito del decreto Colosseo, perché secondo me l'ha smontato, l'ha sminuito, l'ha depotenziato. Sì. E invece sì. Lei pensa che sia un buon decreto? No, assolutamente, ma innanzitutto c'è da dire che per fare una bella visita ai musei, i comuni, come ad esempio ha fatto il comune di Varese, pratica la teoria dei musei diffusi. Cioè noi abbiamo un bellissimo museo archeologico in una bellissima villa che però Giuseppe non ci faccia la proloquo di Varese, non faccia la proloquo che ci starebbe, però voglio sapere perché secondo te è un buon decreto, questa è una buona notizia. È un buon decreto perché evidentemente mette un limite a queste indebite ingerenze da parte del personale. Sono d'accordo che evidentemente il personale ha i suoi diritti, sì. Però come è stato detto giustamente, i diritti sono quelli dei visitatori, perché attraverso i visitatori più i visitatori sono contenti, più diventano amici dei musei. Quindi questo è il discorso. Quindi secondo te, Giuseppe, questo decreto è uno strumento importante, certo, per far vivere meglio i musei. Per far vivere meglio i musei. Vabbè. Assolutamente. Sì, penso che l'opinione sia assolutamente legittima, ci mancherebbe. Credo anch'io che possa essere un passo in avanti. Io ho detto semplicemente con Patrizia Asproni che insomma forse non so, per quanto riguarda Roma, per esempio, una mattinata senza il Colosseo ha fatto saltare i nervi al ministro, a tutti. Fra l'altro lo sapevano tutti perché il ministero era stato avvisato. Non erano stati avvisati forse i tour operator. Ecco, si potrebbe lavorare anche sul coordinamento della gestione dei flussi del turismo, sull'accoglienza dei turisti. Si poteva offrire un pomeriggio gratuito all'ingresso al Colosseo come compensazione. E cioè non è stato fatto niente tutto questo, salvo poi dire ai lavoratori adesso siete un servizio essenziale, che ci sta. No, ci sta, ma benissimo. Soprattutto quello che diceva Patrizia Asproni, il punto d'arrivo è lo stesso, è il fatto che sono un bene essenziale, ma forse non è un decreto il modo per rendere sì che tutti capiscano quanto la cultura sia importante. Perché per decreto di solito non si riesce a cambiare la coscienza critica e civile di un paese. Comunque grazie Giuseppe, perché da Presidente dell'Associazione Amici dei Musei di Varese hai dato il tuo contributo positivo su questa faccenda qua dei musei. Elena da Monza, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo partecipare al quiz sul personaggio. Perfetto, yes. Siamo tutti orecchi. Chi sarebbe? Gentilissimi. Sentiamo. Allora, per me è Rajoy, cioè il premier spagnolo. Allora, Italia-Spagna andata e ritorno è il premier che ha twittato un appoggio a Marquez, al quale andata e ritorno ha risposto Renzi con un appoggio a Valentino. Quindi la questione è sempre Valentino-Marquez. Sì. Però il fatto che da questa angolazione bella, sì. Il premier, diciamo, spagnolo si è proprio speso per un suo... Ognuno fa il tifo per il suo campione, è ovvio. E giustamente è diventato un'Italia-Spagna nel momento che i due premier si twittano. Andate e ritorno, sì, esatto. In questo senso. Noi ringraziamo moltissimo intanto ti abbiamo fatto raccontare la storia, perché la storia ci piaceva anche a noi, questa dei due tweet, dei due premier. Il personaggio non è quello, però ti ringraziamo moltissimo. Posso di aver chiamato. Posso dirvi una cosa? Certo. Anche due. Allora, gentilissimi. Io sono quella insonne che vi ha telefonato un po' di tempo fa dicendo che vi sento tutte le ore e continuo a dire che siete una delle radio migliori, anzi forse la radio più bella che esista sul panorama italiano. Grazie. Faccio una critica. Perlomeno una richiesta. Le rubriche dedicate ai libri in orari diciamo un po' più potabili, per non dire delle parolacce, non alle due di notte. Non alle due di notte. Sia Alessandra Tedesco, che è bravissima, sia Salvatore Carruba, uno alle sei e mezza. Io sono sveglia, tanto per cui me li godo. Però Elena, c'è il podcast, giustamente mi ricorda Paolo Corleone in regia. Certo, a un certo punto, tac, quando ti serve, se l'ami molto, giustamente questa rubrica la puoi risentire in qualunque momento, però sì, insomma però, noi facciamo però nostra accogliamo questa richiesta di mettere in orari più giusti la cultura, giustamente. Ciao Elena, grazie, buona giornata. Grazie mille. Chiudiamo con Pino dalla provincia di Brescia. Chiudiamo questa parte, poi andiamo sul tasto. Buongiorno. Non chiudiamo per niente. Pino, sì. Sì, buongiorno, buongiorno. Su cosa volevi intervenire, Pino? Per il personaggio del giorno. Chi è? Della settimana. Della settimana. Chi è? Secondo me è Sandro Pertini. Why? Sandro Pertini. Sì. Perché? Perché mi viene in mente Italia-Spagna, sì. andata e ritorno, ha preso l'aereo per andare a vedere la finale, sì. è tornato indietro. Però, però va detto che la notizia dovrebbe essere di questa, questa settimana, questa, quindi se stiamo parlando dell'82, di lui che fa il segno 3 nella finale di Italia-Germania. Non ho seguito bene. Bravo, bravo, non importa, non importa. Siamo felicissimi di aver ricordato il nostro grande presidente Sandro Pertini, ma non è il personaggio di questa settimana, era il personaggio di una settimana, appunto, giugno, verso giugno 82. Facciamo anche Caterina, allora, dai, chiudiamo questo blocco, me lo fai fare, poi il traffico arriva subito, anzi chiedo scusa ai colleghi che sono in attesa. Caterina, hai 30 secondi per rispondere. 30 secondi? Io sì. dicevo Lorenzo Jorge, però complimenti per la radio, è bellissima. Grazie. Lorenzo Jorge, Jorge. Lorenzo, ovviamente, anche qui non chiediamo perché di questa notizia, ecco. perché la notizia alle 14, ma non era lui, non, ma era, non lui, era lui il personaggio. Prendo il suggerimento di passare il Capodanno a casa del Cardinal Bertone, grazie, bellissimo. Ci sarai anche tu, perfetto, ci saremo c'è anche noi, perfetto. Un evento su Facebook, tutti Capodanno invitati. A casa Bertone. Tutti invitati. 800 24 00 24, allora aggiungiamo un indizio per il personaggio della settimana. La notizia esiste anche grazie a internet. A tra poco. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Un'altra grande notizia di questa settimana, in realtà ormai sono due settimane, che Messina è senza acqua, la città di Messina senza acqua, perché insomma, è stato tentato un cosiddetto bypass dell'acquedotto per diciamo aggirare l'acquedotto che è crollato per via della frana che c'è stata attorno a Messina, perché l'acqua viene da molto lontano a Messina. E vabbè, insomma, per risolvere questo infarto idrico. Infarto, uno scandalo, è stato detto di tutto, che dire, che dire. E vabbè, insomma, poi ci si è messo anche Renzi, che nell'immancabile anticipazione nel libro di Bruno Vespa ha detto: risolveremo l'emergenza idrica e poi faremo anche il ponte sullo stretto. E tutti: no, dai, il ponte, no, basta col ponte. Per portare l'acqua con dei secchi a mano. Faccio come Giannino. Basta. Sì, esatto. Tutti poi hanno capito: ah, ma era per quello che volete fare il ponte, per portare l'acqua da Reggio Calabria, sì, dove forse c'è. E soprattutto l'altra cosa che ha detto: ma però prima finiremo la Salerno-Reggio Calabria. Quindi fra Salerno-Reggio Calabria, il ponte, ho la sensazione. La vera domanda è: quanto intende governare Renzi? Perché 62 anni, esatto. Prossimi 62 anni, ovviamente. Va bene, sentiamo un po' di voci su questa benedetta, purtroppo, acqua. Ci scuseranno gli amici di Messina se ci scherziamo un po'. È un problema grosso, ma che dobbiamo problema fare? Un problema gigante. Il sottosegretario De Vincenti, vai. L'emergenza idrica nella città di Messina. Oggi il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza e ha dato poteri straordinari, poteri forti alla Protezione Civile Nazionale. Poteri forti alla Protezione Civile, ma anche all'esercito, perché quando c'è un problema in Italia siamo sempre lì. Arriva l'esercito, ci sono i furti, arriva l'esercito. Muore qualcuno in Sicilia, arriva l'esercito. Se poi è sempre in Sicilia l'esercito, chissà perché. Ma non sono in Sicilia, stamattina sono arrivato qui a Radio 24 e c'erano due militari sotto, e gli ho detto: ma che cosa succede? Ci sono delle nuove minacce di cui non so niente. E il militare mi ha detto: non lo so. Ho detto: ma se non lo sapete voi, mi ha detto: lo sanno i piani alti. Io ho detto: ma io mi sono molto preoccupato, devo avvisare mia mamma, perché è un problema se ci sono dei militari qui sotto, proprio all'ingresso con il mitra. I militari li vuol mandare il ministro Pinotti in Sicilia a fare che cosa? A costruire praticamente con gli ingegneri del genio civile questo bypass per l'acquedotto. Chissà se a cosa può servire l'esercito, forse a spalare un po' di terra. Boh, sentiamo. Appena l'esercito, le forze armate sono state attivate, si sono mosse immediatamente. Ovviamente questo non è un compito precipuo delle forze armate, quindi l'attivazione deve avvenire dalle autorità locali, ma da quando siamo stati avvisati noi non abbiamo fatto passare neanche poche ore per intervenire. Il primo intervento è stato quello dell'invio di 4 autobotti dell'esercito di 8.000 litri ciascuna, e poi abbiamo mandato anche una nave portacqua, come diceva il sottosegretario De Vincenti, proprio perché l'emergenza era di tale rilevanza. Mi proposero una strana assicurazione contro gli incendi, contro le rapine. 1.000 euro al mese per avere protezione. Forse sono troppo onesto, è un po' fuori contesto, ma io li denunciai per stare a posto con me stesso, a posto con lo Stato e con i suoi comandamenti. E guardo con invidia il capo dell'ufficio timbri. Ho iniziato con il prestito d'onore, ma ho dimostrato di averne già abbastanza. Con questo Paolo Antonio, Piacere Salvatore, una ironica canzone che parla della Sicilia. Diamo il buongiorno, è un grande piacere per avere con noi Dacia Maraini. Buongiorno. Buongiorno a voi. E buona domenica, Dacia Maraini. C'è un'altra Sicilia, abbiamo voluto fare un po' questo, diciamo, accostamento. Abbiamo appena parlato di Messina, ma insomma non è colpa dei messinesi, sicuramente, se non c'è l'acqua in quella città. Invece è merito sicuramente di molti, 36 per l'esattezza, imprenditori di bagheria, avere denunciato il pizzo e avere mandato in galera un sacco di criminali. Dacia Maraini, che ha vissuto e ha scritto un celebre libro, l'associazione è immediata, è stata naturale, ha già commentato sui giornali, orgogliosa anche, vero? Sì, è una cosa che mi fa molto piacere. Però vede, la Sicilia è una strana regione. Non c'è la mediocrità, ci sono persone straordinarie, veramente, che rischiano la vita tutti i giorni, che fanno un lavoro veramente a fondo contro la mafia, contro l'inerzia, cioè. E poi ci sono i criminali. È raro trovare. Non ci sono figure grigie, diciamo, ci sono solo figure bianche e nere. Sì. Ora, il fatto che si siano mossi tutti insieme è un segnale fortissimo di consapevolezza, perché la consapevolezza di 2, 3, 4, 5 persone è poca, non basta. Invece quando una collettività, un gruppo, insomma, abbastanza folto, sì, prende in prima persona una posizione così netta, questo è una cosa diversa. Sì, è molto importante, perché è un segnale che c'è un cambio di consapevolezza, di coscienza e di rapporto con le istituzioni, con lo Stato, insomma, cambia. Ed è un cambio vero. Ma questo corrisponde proprio a un cambio anche numerico, cioè la maggioranza dei siciliani oggi si può dire che sono allineati, perché sono talmente tante le notizie di antimafia che vengono ormai dalla Sicilia, no? A fronte spesso invece di notizie che riguardano il nord Italia, dove scopriamo collusioni che non sospettavamo, ormai sono alcuni anni che si parla della mafia al nord. Si può dire, lei si sente di poter dire che in Sicilia oggi l'antimafia maggioritaria Beh, come sentimento sì, perché prima c'era il silenzio, così un po' paura, un po' sfiducia, anzi direi che più di tutto c'era la sfiducia, come dire, tanto non c'è niente da fare. E invece quando si è visto che qualcosa si può fare, questa sfiducia si sta sgretolando, e questo crea una consapevolezza che più è diffusa, naturalmente più è importante, più crea cambiamento, altrimenti è difficile cambiare quando sono in pochi, sì, a mettersi in prima fila, a prendersi la responsabilità. Anche il Papa ha dato un segnale importante. Ma infatti è interessante che lei parli di fiducia, perché Angelino Alfano, ovviamente in qualità di ministro, ha detto la stragrande maggioranza delle persone ha reagito perché ha fiducia nelle istituzioni. Lei pensa che sia fiducia nelle istituzioni, o in realtà è quasi più che c'è così tanta sfiducia nelle istituzioni che uno si rimbocca le maniche e dice dobbiamo risolverla noi questa cosa? Beh, qualcosa forse sentono che sta cambiando anche nelle istituzioni, però certamente la prima fiducia in se stessi, esatto, cioè, la fiducia nella comunità, nella collettività, nel territorio, quella è la fiducia più importante. Si può aspettare che vengano sempre da fuori, sempre la polizia, sì, la magistratura anche, a risolvere le cose. Anche questa questione, insomma, ancora complimenti a questi 36 imprenditori di Bagheria che hanno fatto queste denunce, ed è un'ottima, bellissima notizia di questa settimana. Però la questione di Messina, no? Cioè, non, le risposte non possono arrivare sempre da fuori. Qua, quanti anni è che si parla dell'emergenza acqua in Sicilia in vari modi? Adesso sarà, è da sempre. Ma sì, poi è bello che la Sicilia è ricca di acqua, non è che non ce l'ha l'acqua. Però viene rubata, viene distorta, viene sottratta ai cittadini. Dalla mafia, appunto, dalla criminalità organizzata. Che poi gliela rivende. Sa cosa fa? Organizza dei sistemi di botti che vengono pagate carissime, quindi loro sottraggono l'acqua per poter vendere le botti. Io lo so perché in certe zone della campagna, adesso di Messina non conosco la situazione, però in moltissime zone della campagna o di piccole città succede questo, che proprio viene sottratta volontariamente l'acqua per poter vendere le botti, cioè l'acqua molto più cara. E questa è una prepotenza, ma la mafia è prepotenza, è sopraffazione, è abuso. Questo però vuol dire che c'è una grandissima sconfitta. I cittadini per molto tempo hanno pensato che talmente erano schiacciati da questo abuso, e devo dire che c'è stata una collusione da parte della politica, diciamolo francamente, per tanti tanti anni, che hanno pensato forse non c'è niente da fare, sopportavano. Ma che cosa è cambiato? Perché giustamente lei dice c'è stata la collusione con la politica, e adesso che cosa è cambiato? Beh, direi che c'è qualcosa si muove. Intanto abbiamo visto che, insomma, quando io ero bambina la mafia neanche si parlava, neanche si nominava. Ah, è vero, questo sì. E non si nominava, e quando venivano i giornalisti stranieri si diceva no, ma non esiste, è un'invenzione dei giornalisti. Adesso, per esempio, intanto sì, ci sono degli studi seri, c'è la magistratura che si muove. La magistratura allora era appiattita, non si muoveva. Adesso con alti e bassi, con difficoltà, perché anche la magistratura ha dei suoi problemi interni, certo, però si muove. Perché insomma, noi diciamo è vero, così. Ha ragione, scusi se la interrompo, perché noi diamo quasi per scontato oggi che ci sia l'antimafia, e a volte anche l'antimafia stessa, abbiamo visto ci sono delle inchieste sui beni confiscati, cose che non vanno al loro posto, però è una conquista, prima non c'era. I beni confiscati sono forse il punto più importante di questo cambiamento. Perché finché le condanne lasciavano il tempo che trovano, tanto poi si trovava il modo di uscire dalla prigione, ma i beni confiscati è una cosa gravissima per la mafia, ed è forse l'unico punto veramente su cui si può far leva per cambiare le cose in Sicilia. Perché si va a toccare i portafogli. È chiaro, perché poi riguarda tutta la famiglia, il clan. Non è soltanto la persona, può anche andare in prigione, tanto dice poi fa un po' esco, tiene buoni rapporti con la famiglia, intanto è ricca, ha certo. Le sue proprietà, le sue terre, ma il momento in cui portano via quelle terre, quella proprietà, quelle case, vede che le cose cambiano, ma cambiano parecchio. Certo. E poi diciamo la verità, oggi i maggiori capi mafia sono in prigione. Sì. Va bene che la mafia si aggiorna, cambia pelle, prende altre, però intanto quelli che hanno fatto terribili delitti e hanno fatto i peggiori guasti sono in prigione. E questa non è una cosa da poco, non bisogna sempre vedere il bicchiere vuoto. È chiaro che non si è risolta la questione della mafia, non è risolta per niente, però qualche cambiamento c'è, dei segnali molto forti. E la notizia di Bagheria lo conferma. Senta, ha sentito le critiche del regista Gabriele Muccino al regista Pierpaolo Pasolini? Che ha pensato? Ma ho pensato che è stato un po' ingeneroso, perché, e poi forse non conosce bene il cinema di Pasolini, perché è un cinema bellissimo. Cosa dice che non c'è stile? C'è uno stile talmente forte che è amato da tutto il mondo, forse lui non sa. Perché ricordiamo che Muccino ha detto, Pierpaolo Pasolini è un non regista che usava la macchina da presa in modo amatoriale senza stile. Cioè come se l'avesse fatto perché non la sapeva usare. Forse era che Pasolini voleva dare un occhio diverso, io credo, ma molto modestamente, modestissimamente alle cose. È strano che Muccino... Beh, non è un cinema confezionato alla Hollywood, però è un cinema che ha avuto una tale importanza che tu è conosciuto in tutto il mondo. Beh, forse certo. Lui non sa, ma in tutto il mondo si conosce il cinema di Pasolini. Questo poi il cinema italiano non è famoso per i film hollywoodiani confezionati, magari come oggi li fa Muccino e possono anche essere dei bei film dal punto di vista commerciale, ma non solo. Ma era il nostro cinema, era un cinema. Che cinema era? Il neorealismo? Pasolini era un cinema? Il neorealismo è stata una cosa importantissima, è stata una bomba nel cinema internazionale. Ha rinnovato il cinema internazionale, tant'è vero che non so, grandi attori, grandi registi sono venuti qua, non a caso la Ingrid Bergman, che era il mito di tutto il cinema, è venuto e ha sposato Rossellini, che era appunto, che aveva, era uno dei nuclei della, certo, girando proprio in Sicilia quel film strepitoso del neorealismo, certo. È un cinema sì innovativo, diverso, molto autoriale, in cui c'è uno stile personale prima di tutto, un modo di vedere le cose attraverso lo sguardo, il corpo, lo sguardo dell'artista. Comunque, però insomma, su questo cinema ormai non è nemmeno, ormai è stato accettato, non è nemmeno che fa scandalo come ma no, ai ma tempi certo, di ma Rossellini. Si può dire che Muccino, perché parlare di Pasolini vuol dire anche finire sui giornali, no? Nella settimana in cui si celebra l'anniversario, anche è anche per quello, ho cercato un po' di... Ha scelto anche molto male il tempo, devo dire. Se ne posso chiedere un'altra cosa, nel senso che io apprezzo moltissimo che lei molto spesso, appunto perché stiamo parlando di Pasolini, nelle dichiarazioni dice bisogna far lui sulla morte di Pasolini, perché io ho la sensazione che comunque lo ricordiamo, amiamo tutti ricordarlo, e nel quarantennale però ancora non sappiamo che cosa è successo realmente, chi lo voleva morto, un sacco, insomma, molte cose si sanno in realtà. Io mi sono battuta per far riaprire il processo, però ancora non ci siamo riusciti. Volevo sapere esattamente questo. Non ci siamo riusciti, perché dicono che ormai è troppo tempo è passato, non ci sono prove, però... Ma vi continuerete a battere per cercare di riaprire il... Sì, perché secondo me è indegno di un paese civile che ci sia ancora un mistero sulla morte di un grande intellettuale, di un grande rappresentante del paese in tutto il mondo. Certo. Concordo molto, anche perché sembra sempre che lo vogliamo ricordare quasi per dimenticarci che comunque noi non stiamo cercando la giustizia. Invece la giustizia è importante, è un grande sentimento magari... che viene un po' taciuto, però il bisogno di giustizia appartiene a tutto il paese. Senta, le voglio chiedere ancora una cosa. Lei che spesso va girando per scuole, incontrando scolaresche, parlando del suo lavoro, come ma di tante altre... Adesso vado. Ecco, appunto, tra l'altro. Ha letto di quella notizia di questa scuola in provincia di Torino, nella quale i ragazzini riprendevano con i loro telefonini gli insegnanti, li mettevano un po' alla berlina sui social network, sì, su WhatsApp? È una cosa brutta. E poi i genitori che, quando sono stati sospesi i figli, si sono presa con gli insegnanti. Sì, questo ormai i genitori sono sempre dalla parte degli insegnanti, che vuol dire che sono contro la legge. Ma come mai, secondo lei? Contro l'educazione, e viziano questi figli in maniera veramente vergognosa. Però questa è anche colpa. La scuola manca l'autorità, come mai? Che non investe sulla scuola e che non dà l'importanza che deve. La scuola ha perso di prestigio, questo è il punto. Però non è colpa degli insegnanti, guardi che la scuola, nonostante lo stato in cui è ridotta e maltrattata, va avanti grazie a alcuni insegnanti che veramente ci hanno passione, sono pagati poco, però fanno con passione questo lavoro, perché sennò veramente è un disastro. Un paese che non investe nulla sulla scuola, le scuole cascano a pezzi, ci sono ancora tutte le scuole con l'amianto sopra. Tutte le scritte, la gente davanti alle scuole che vende la cocaina, l'eroina, ma non so, c'è una situazione gravissima di abbandono delle scuole. Tra l'altro di scuole parla anche il suo ultimo romanzo appena uscito, sì. È giusto, è vero? Sì, si chiama La bambina e il sognatore. La bambina e il sognatore, si parla proprio di un... cioè, per la prima volta io ho preso per protagonista un uomo ed è un maestro di scuola, di scuola elementare. E che succede senza voler, diciamo? È un maestro che, insomma, varie cose. Prima di tutto lui ha perso una figlia, poi nel suo piccolo paese sparisce una bambina, e allora lui si mette lì a cercarla insieme con tutti gli altri, poi la bambina viene dimenticata e lui invece continua questa ricerca perché le ricorda moltissimo la figlia. Però contemporaneamente c'è il suo rapporto con la scuola, in cui lui capisce e apprende che i bambini, quando fa le lezioni, normalmente si distraggono, sono distratti, pensano ai telefonini, ai giochi, eccetera. Già. quando invece lui racconta delle storie che hanno a che vedere con il mito, con il linguaggio, con l'insegnamento, non barzellette, storie vere, storie importanti, racconti, e probabilmente tutti sono incantati e ascoltano. E allora capisce che l'insegnamento deve passare anche attraverso il racconto, la storia, le storie. E quindi anche un modo di vedere un po', di rinnovare la scuola anche attraverso la narrazione. Bello, un libro che oggi si chiamerebbe quasi lo storytelling. Sì, ma perché ci devi mettere l'inglese sempre? Narrazione legata all'insegnamento, cioè certo. Non casuale di qualsiasi cosa, ma parla di, non so, di astronomia, racconta alcune storie legate alle costellazioni, alle stelle, alla nascita dell'universo, eccetera. Parla del territorio e racconta alcune storie legate al territorio. Parla del linguaggio, racconta una storia di Grimm in cui si racconta di un re che aveva un figlio. Adesso non so raccontare la storia, no, certo. È una bellissima certo. Storia. Le storie per apprendere sono più affascinanti e sono più seduttive e comportano una partecipazione di tutta la persona. Quindi magari ci vuole un po' di sforzo in più, una piccola fatica in più per l'insegnante, però poi il risultato. Ma sì, i risultati sono buoni. Beh, e lo fanno migliore. Già alcuni insegnanti. Certo. Quindi un libro per tutti gli insegnanti, ma anche per i genitori di bambini, ma per chiunque, la bambina è il sognatore. Grazie mille, Dacia Maraini, buona domenica. Grazie, buona domenica. Per essere stata con noi. Arrivederci. E allora siamo un po' lunghi sulla pubblicità, 800 24 00 24, ci ritroviamo tra pochissimo, cerchiamo anche un personaggio della settimana, la notizia è accaduta anche grazie a internet. Si può fare, cronache da un paese migliore. Comunque, storytelling, touch di experience, io diventerò matto, non ce la posso fare. Storytelling è il tema. Usate l'italiano, perdonami, mi sono dimenticato in questi due giorni di radio, in realtà, di raccontare pure che sono stato al World Business Forum di Milano. Basta. Ho capito, il World Business Forum, forse il punto economico più. Business si può dire. Il tema di quest'anno era lo storytelling, infatti, quindi c'era IM, c'erano i relatori, erano Baricco, c'era Branson, Richard Branson. Insomma, è stato veramente bellissimo, interessante, ma non c'è il tempo per raccontarlo, no. Te lo racconterò un'altra volta. Sentiamo gli ascoltatori. Giuseppe da Milano, buongiorno. Ciao, buongiorno, innanzitutto complimenti, siete grandissimi. Grazie. Grandi, insomma, così, medio, peso medio. Fate le veci della società civile, che siete straordinari. Ci provi, grazie. Comunque, mi avete un po' bruciato il personaggio, anche se so che non è giusto, ma lo amo, quindi... Lo dico, lo amo e lo dico. Pasolini, il personaggio. Perché l'abbiamo bruciato? Ne abbiamo parlato con Dacia Maraini e le abbiamo anche chiesto di continuare a chiedere la riapertura del processo. Ha ragione lui, l'abbiamo bruciato perché infatti non era lui il personaggio. Non era lui, la notizia ovviamente su di lui è evidente, essendo il quarantennale della morte. Grazie, grazie mille però, lo ricordiamo sempre volentieri. Un bacione a tutti, grazie. Grazie, buona domenica. È un altro il personaggio, aggiungiamolo l'indizio, perché sennò a questo punto dove andiamo a finire? Il personaggio è ricomparso dopo 20 anni. Vedi. Così proprio. Un po' dritto per dritto. Per aiutarvi, è un personaggio che è difficile da cercare. È proprio difficile da cercare in tutti i sensi. In che senso? Questo è un quarto indizio. Sì, è un personaggio difficile da cercare. Quindi abbiamo un terzo / quarto indizio, oggi proprio generosità. Troppi indizi. Allora, a questo punto riepiloghiamo, che siamo in chiusura. Italia-Spagna. Ha a che fare con la Spagna e con l'Italia. È accaduto il fatto tramite internet. Il personaggio è ricomparso dopo 20 anni ed è un personaggio comunque difficile da cercare. Ragazzi, a questo punto, cioè, i biglietti di Tamara Dell'Impeach e il catalogo li avete già in mano. A questo punto però andiamo, io credo, sul traffico, no Paolo? Sì, no, niente traffico. Allora, riepilogo delle notizie. Non c'è traffico. Settimo. Vai. Questo è buono. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle hums. Ready to race to you. Musica di EPD Francesca e noi la usiamo regolarmente ogni domenica insieme alle altre per sottolineare i giorni che passano della settimana e che però, l'abbiamo detto in apertura, è stata un po' al centro di questa querelle tutta a sinistra, la riunione della sinistra italiana al Teatro Quirino, vari parlamentari fuoriusciti dal PD, Sel, Vendola e compagni vari, hanno detto noi non siamo la sinistra di Happy Days. Poi ha risposto Fini su Twitter, ma Happy Days ha detto era bellissimo, come dovrebbe essere la sinistra, è anche divertente. E noi però Happy Days ce l'abbiamo sempre. Ce l'avevamo già prima noi Happy Days, nel nostro riepilogo. Allora, siamo arrivati a una notizia spinosa, molto spinosa, perché quando tocchi Napoli si può poi dire, muori, non vedi Napoli, tocchi Napoli, muori. Giletti all'Arena, insomma, parlando, conversando con un consigliere comunale di Napoli, ha detto queste parole qua, risentiamole. La RAI, allora, gente che fa un lavoro straordinario, non solo io, e voi iniziate a far andare avanti la vostra città, fatela mettere a posto, che è indecorosa in alcuni punti, abbandonata, e se lei esce dalla centrale della stazione trova solo immondizia in tutti i vicoli. E i cittadini onesti di Napoli stanno ancora aspettando che qualcosa si pulisca. Ora io è la prima volta che le sento le parole di Giletti, cioè non l'ho sentito prima di andare in onda, ma insomma, in generale io non proprio tutte le parole di Giletti. Mai sentito Giletti in vita mia, mai sentito. C'è immondizia in tutti i vicoli, ha detto, però fuori dalla stazione. È un po' esagerato, gli è un po' partito l'embolo. Ma è più, mi sembra più il modo che le parole, perché ha detto semplicemente indecorosa, però è questo modo così infervorato e soprattutto sì. No, questa accusa detto... di dire mettetevela a posto, diciamo, sì, di responsabilizzare, di dire oh, sono fatti vostri. Ha proprio detto ci sono in tutti i vicoli, c'è l'immondizia. Vabbè, fuori dalla stazione. Poi dopo credo che abbia un po' corretto. Facciamo, saltiamo il Giletti, saltiamo un Giletti e facciamo l'altro. Alla Zanzara, di qui da noi a Radio 24, ovviamente, che diciamo, cosa fa? Ritorna sul concetto, sentiamo. Contestatemi se alcune zone sono pulite, perfette, inequivocabilmente straordinariamente belle, per carità. Napoli è una città meravigliosa, la classe politica degli ultimi anni l'ha distrutta, a mio avviso. La classe politica, questo però no, posso no, dire no, un ma... po' di populismo mediatico, ormai i giornalisti, anche noi, per andare dietro, la classe politica l'ha distrutta. Ma soprattutto Napoli. Negli ultimi... I napoletani sono perfetti e i politici sono tutti delle mezze cattucce. I politici sono napoletani, molti politici a Napoli. Il problema è che dire negli ultimi anni mi sembra uno sguardo un po' miope sulla città, nel senso che non credo che i problemi di Napoli, i grossi anche problemi di Napoli, vengano dagli ultimi anni di De Magistris, ecco, questo non lo penso. Ecco, lo sentiamo, vai De Magistris, ovviamente, l'immancabile replica del primo cittadino. Il signor Giletti è lautamente pagato con i soldi dei contribuenti. Dovrebbe essere un arbitro imparziale. Non lo è. È sceso in campo, si è messo la palla, diciamo, sotto al braccio e ha iniziato a giocare a pallone. A noi questa cosa non piace, i napoletani reagiscono. Vabbè, insomma, chissà Napoli in che posizione della classifica, adesso controlliamo, della classifica dell'ecosistema urbano, nella quale invece si è piazzata come prima Verbania, ancora una volta. Voi direte, ma che c'entra Verbania con Napoli? Niente, adesso però ne parliamo col sindaco, perché questa è una buona notizia, almeno per quelli che ci abitano a Verbania. Tra poco, dopo il Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E siamo ancora qua per pochi minuti. Per pochi minuti, spazio ad una ascoltatrice, Lucia da Milano. Buongiorno, Lucia. Lucia. Pronto? È collegata, sì, tocca a lei. Volevo provare a rispondere al quesito del personaggio della settimana. Yes. Prego. Allora, io non ricordo il nome, però ricordo la notizia, quel medico spagnolo che da 20 anni fa l'eremita in Maremma. Il nome glielo diciamo noi, è Carlos. È Carlos, è una notizia pazzesca, incredibile. Pazzesca, in effetti sì. 20 anni si era nascosto in Maremma per fare i cavoli suoi. L'eremita, un ragazzo. L'hanno ritrovato ed è scappato di nuovo. Credo che fossero due calciatori che passavano di lì. Erano due cercatori di funghi che l'hanno trovato. Poi hanno contattato la famiglia. La famiglia dice che questo ragazzo a 26 anni era scappato di casa. Loro lo pensavano morto. Era stato dato per morto qualche anno fa. E invece è stato ritrovato, che fa l'eremita. volta, però si è rinascosto di nuovo, quindi siamo ancora in cerca ed è per questo che è un personaggio difficile da cercare. Grazie Lucia. Grazie mille. Si porta a casa due biglietti e il catalogo della mostra Tamara dell'Empicca, ha edito il catalogo dal gruppo 24 ore, la mostra che si tiene a Verona. Città è quella di Verbania, salutiamo, l'abbiamo già anticipata la notizia, il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini, buongiorno. Pronto? Sindaco? Sì, buongiorno. Buongiorno. Eccola, eccola, buongiorno. Il sindaco di Verbania, buongiorno Silvia Marchionini. Sì. Allora, l'abbiamo detto, insomma, la notizia è di, in realtà di due settimane fa, però la settimana scorsa ce la siamo persa, c'era sfuggita, no, non c'era sfuggita, non avevamo avuto il tempo di intervistarla. Complimenti, confermati. Grazie. Prima città per l'ecosistema urbano, che vuol dire? Vuol dire che a Verbania la qualità della vita è ottima. Io guardo la giornata di autunno, splendida nei colori, il paesaggio qui sul lago è meraviglioso. E beh, mi punta, ma è ottimo sempre, se non solo in autunno. Se mi punta tutto sul paesaggio, allora il confronto con Napoli rischiate di perderlo, invece no. Invece non, no. Credo, non credo, perché poi c'è tutto il periodo estivo, infatti le possibilità anche turistiche, Verbania fa 800.000 presenze l'anno di visitatori stranieri, noi siamo a 100 km da Milano e incuneati verso la Svizzera, per cui il Lago Maggiore di per sé ha una sua tradizione anche di ville storiche, di giardini, e il lago di per sé ha il suo fascino, per cui... Momento proloquo del sindaco di Verbania. Vabbè, è un posto bellissimo, però, intra Verbania. Però non avete vinto per questo. Guardi, io lo dico perché è nei fatti che così, notoriamente no. Il lago... Sì, ma io lo conosco ed è un posto stupendo. Ah. Ecco, bravi. Però non avete vinto per questo, avete vinto perché c'è l'aria pulita, perché ci sono le piste ciclabili, perché... Perché beh, soprattutto non c'è smog, e questo è un elemento di per sé molto positivo. Poi parecchie, a Verbania si gira a piedi, in bicicletta, molte aree di parco giochi, aree verdi, la montagna a due passi, c'è anche la montagna cittadina che è il Monte Rosso, e quindi c'è una fruizione del tempo libero, nuovi stili di vita che generano così anche un indotto locale tutto da valorizzare. Quanti anni ci vogliono perché questi investimenti, che sono di lungo periodo, no? Sulla raccolta dei rifiuti, sulle piste ciclabili, che però poi fruttino, perché si ha la sensazione spesso che non si fanno queste cose perché poi non hanno un tornaconto elettorale. Beh, ci vogliono almeno due mandati. Verbania ha iniziato dal 2000 a investire molto sulla raccolta differenziata, a organizzare al meglio il tempo libero nei percorsi cittadini e il trasporto pubblico locale. Quindi... nonostante che, bene anche dirlo, noi sulla mobilità abbiamo, non risultiamo al primo posto. Questa è la percezione di esigenza sentita, quindi dobbiamo lavorare molto, ecco. Non siamo seduti sugli allori, anzi il primato va consolidato e migliorato, eh. Bravi, comunque. Ottimo. Complimenti. Va bene, grazie. La ringraziamo moltissimo. Continuate. Grazie. Così, continuate a vincere. Così, a fare da faro, a tirare la volata delle città italiane per quanto riguarda la qualità della vita. Noi dobbiamo chiudere. Esatto, io devo solamente dire una cosa: oggi alle 16 sarò al Festival della Microeditoria a Villa Mazzotti a Chiari, in provincia di Brescia, dove presento Fossi in te io insisterei. Sono intervistato da Diego Trapassi e quindi ve lo comunico, sono felicissimo di andare a Brescia a presentare il mio libro. Rossano Ercolini ha vinto il premio Paolo Borsellino per l'impegno civile. Lo volevo dire questo perché è il nostro grande Rossano Ercolino. Ciao. Bello, a tutti. Complimenti a Rossano. Grazie, ci risentiamo sabato prossimo. Buona domenica a tutti. Ciao.